buonasera a tutti, sono quasi le 20:17 quando inizia una nuova puntata di Radio 3 Suite, programma curato da Monica D'Onofrio, Stefano Roffi e Paola Damiani. Io sono Guido Zaccagnini, la consorcia Carlo Fabiani e questi sono i nostri recapiti. Per la posta elettronica radio3-suite@rai.it, per gli sms il numero è 335-5634-296. Tanta musica questa sera a Radio 3 Suite, ben tre cartelloni. Cominceremo tra pochissimo con un omaggio a Boris Porena e poi passeremo a Milano e parleremo con Oreste Bossini che ci presenterà un concerto del 17° Festival Milano Musica Suoni dall'Europa, Filarmonica della Scala, diretta da Christian Eggen, per poi passare a un concerto registrato il 21 maggio dell'anno scorso al Teatro dell'Elfo di Milano, Sentieri Selvaggio, diretti da Carlo Boccadoro con Eugenio Finardi, che contiamo di avere al telefono perché è presente in questo terzo cartellone. Ma cominciamo subito con il primo di questi tre cartelloni. Il 27 settembre 1927 nasceva Boris Porena, quindi oggi, un anno dopo, i 80 anni, gli auguriamo, potremmo dire a mo' di Alice, un buon non compleanno. Buonasera Boris Porena. Buonasera. Buonasera. Allora, siamo contenti per una volta di presentare un pezzo forse abbastanza importante della tua produzione. Si tratta di Der Gott und die Bayadere. Sì. Tra l'altro registrato ben 50 anni fa a Torino. Allora, del 57 difatti. Sì, allora a me piacerebbe sapere che cos'era l'Italia, ma anche forse l'Europa musicale, secondo Boris Porena, 50 anni fa. 50 anni fa non è solo cos'ero io, che cos'era l'Europa, cos'era l'Italia, cos'era il mondo, era qualcosa di molto diverso da oggi. I tempi corrono molto rapidamente e quindi è difficile anche oggi rimettersi in quello stato d'animo, in quell'atmosfera culturale di quegli anni. Comunque ci proviamo, anche attraverso la musica che fra poco ascolteremo. È una musica che ovviamente va riferita a quegli anni, ma non solo a quegli anni, va riferita a una parte, diciamo, di quello che allora succedeva, perché nel 57 erano già molto vivaci i movimenti d'avanguardia, a cui io peraltro non partecipavo, non avevo nessun rapporto con quei movimenti, e penso che si senta subito questo qui all'ascolto del pezzo. Anzi, io tentavo un'altra via, e mi ero illuso che quest'altra via potesse essere quella imboccata appunto con questo pezzo. E poi invece le cose sono andate diversamente, e io stesso in un certo senso sono stato costretto a cambiare quasi radicalmente rotta. Vabbè. Boris Porena, ecco, compositore, tu appunto prendevi un'altra strada allora, ma io ricordo allievo di Petrassi, ma poi anche un enorme ruolo nell'ambito della didattica sia del conservatorio di musica, anche della didattica in ambienti più semplici, forse più abbordabili da parte del comune cittadino, la tua scuola, no? Nelle vicinanze di Roma. Ecco, come si sono compenetrate l'attività creativa, l'attività compositiva e l'attività pedagogica? Ma l'attività pedagogica è cominciata almeno 20 anni dopo, quindi a quest'epoca ancora non ci pensavo affatto. E pensavo di instaurare una comunicazione efficace con l'ascoltatore, chiamiamolo pubblico anche, no? E quindi questo è un pensiero che avevo, ma al di là di questo, diciamo, di quello che poi sarà la mia vita, non c'era nemmeno l'ombra. Quindi è difficile rapportare questo lavoro che ascolteremo a quello che è successo poi. Ecco, ma allora torniamo al Porena compositore, allievo di Petrassi, ma come lo sono stati anche altri grandi compositori, uno fra tutti ricordo Aldo Clementi. Ecco, in che modo Boris Porena si è distaccato e in che modo oggi pensa di aver fatto bene o di aver fatto male? No, io non penso di aver fatto male, ci mancherebbe, e se no butterei tutta una vita. Non penso nemmeno di aver fatto particolarmente bene, tanti altri avranno fatto meglio. Non mi pare un problema che riguardi nessuno di noi, ognuno ha la vita che ha e quella svolge, diciamo. A quell'epoca sì, ero allievo di Petrassi, è vero, però di Petrassi di fatto nella mia musica non c'è nulla, almeno in quegli anni no, forse più tardi ho recuperato, diciamo a posteriori, alcuni aspetti salienti dell'insegnamento del maestro. A quegli anni ero anzi, tutto sommato, seguivo una via molto divergente rispetto a quella del mio maestro, che era orientato verso le avanguardie, mentre io no. Io cominciai nel 57, proprio finito del Gottun di Bayadere, mi sono son capitato a Darmstadt e lì questo ha cambiato la mia vita radicalmente. Appunto, Der Gottun di Bayadere, su testo di Goethe. Ieri si parlava di collezioni pittoriche italiane, americane. La scelta di un testo di Goethe in Boris Porena, che ricordo anche degli ascendenti tedeschi nel suo albero genealogico, ecco, questa scelta era una scelta che lo poneva per certi versi all'atere di scelte letterarie. Vi voglio ricordare che erano gli anni di un Guttuso, erano gli anni di una Moravia, erano gli anni di Pavese. Ecco, questa scelta letteraria forse non era del tutto omogenea ad altre scelte letterarie di allora. Ma la mia scelta, anche questa, non è dovuta effettivamente a una scelta, ma al fatto che io ero bilingue sostanzialmente. Mia madre era tedesca, a casa con lei ho sempre parlato tedesco, e la mia lingua di elezione, ma non di elezione culturale o musicale, era il tedesco, perché mi piaceva come lingua, ecco, semplicemente. E poi va bene, c'è stata sempre una mia preferenza per Goethe, e questa si è mantenuta fino a pochi anni fa. Ho scritto più di 70-80, non mi ricordo, Lieder su testi di Goethe, senza contare un paio d'opere cantate, eccetera. Beh, allora adesso ascoltiamo questo Der Gottun di Bayadere, e ancora tanti auguri, Boris Porena. Questo non ho capito. Dico, tanti auguri e a risentirci presto. Grazie. D'accordo, a presto. E allora ascoltiamo in questa registrazione effettuata a Torino il 23 maggio del 58, Der Gottun di Bayadere, Il Dio e la Bayadera. Si tratta di un testo, di una leggenda indiana di Goethe. Il signore della terra, Mahadeva, viene dall'alto per la sesta volta. Vuole essere una creatura terrena, partecipare al dolore e alla gioia. Ad abitare qui, a provare ogni evento umano, è disposto, sia che voglia punire o perdonare, deve guardare gli uomini da uomo. E quando la città da viandante ha visitato, spiato i grandi, i piccoli scrutato, la lascia per procedere oltre dopo il tramonto. Der Gottun di Bayadere, soprano Magda Laszlo, baritono James Loomis, orchestra sinfonica e coro di Torino della RAI, direttore Ettore Gracis. La durata è di circa 28 minuti. Thank you. kräftig geheuchelt allein. Der göttliche Lächeln, er siehet mit Freuden durch tiefes Verderben ein menschliches Herz. Und

Thank you. ascoltato Der Gott und die Bajadere, il dio e la Bajadera di Boris Porena, scritto sulla leggenda indiana di Wolfgang Goethe. Era questo il nostro omaggio, il nostro saluto, il nostro augurio a Boris Porena, a cui si affiancano Agostino, Adele, Margherita e tanti altri che ci hanno scritto in questo frangente. Ricordo il numero per gli sms: 335-5634-296. Ed ora a Milano, in diretta dal Teatro La Scala di Milano, stiamo per ascoltare.